Ave Maria a tutti gli ascoltatori e ben ritrovati nuovamente sulle web frequenze di Radio San Giuseppe. Proseguiamo questa sera, non so se terminiamo il nostro cammino, e difficilmente lo termineremo questa sera a quello che sto vedendo, all'interno delle apparizioni di San Giuseppe. Ecco, la puntata scorsa so per certo, insomma, che ha aiutato non pochi ascoltatori, perché come sempre accade anche in queste cose straordinarie, quali sono le apparizioni a cui noi uomini e donne di fede non dobbiamo, come dire, essere troppo inclini oppure attaccarcisi troppo oppure tanto meno pretenderle dall'alto, no? Però quando il Signore le consente e le permette, e sono sempre edificanti in un modo che va al di là del singolo fatto concreto, no? Questo è sempre molto importante. Ricordiamo che nel Vangelo di San Giovanni, da San Giovanni stesso, i miracoli di Gesù sono chiamati in greco semeia, segni, cioè sono fatti realmente accaduti nella loro soprannaturalità. Quindi non date mai ascolto a chi, specialmente tra qualche esegeta un po' contemporaneo, va a dire che quelle sono invenzioni o cose scritte per alimentare la fede. Questo non è vero, perché Gesù i miracoli li ha fatti realmente, così come le apparizioni di cui stiamo parlando in questi giorni sono realmente accadute. Quindi non sono favolette raccontate per far capire qualcosa di San Giuseppe o per far crescere la fede, sono fatti accaduti. Però all'interno di questi fatti accaduti c'è un surplus. Ecco, che va al di là dell'effetto di grazia, generalmente legato in queste circostanze, come abbiamo visto, a fattori, come dire, corporali, e non solo però, perché per esempio la Santa Morte non è certamente un fattore corporale, no? È un dono spirituale ottenuto da San Giuseppe o regalato a San Giuseppe, abbiamo visto l'ultimo esempio della volta scorsa, da chi pur ignaro era stato particolarmente a lui devoto. Quindi proseguiamo questo nostro cammino. All'interno di questo spirito, posso dire che è arrivato a me un commento a Facebook, da Facebook, circa il fatto che gli ascoltatori sentono bene, ecco, dalla diretta. Quindi volevo tranquillizzare anche Antonio. Insomma, i nuovi strumenti pare che funzionano decentemente, ecco, sempre tutto per la gloria di Dio. Allora, proseguiamo il discorso sulle apparizioni. E vedendo un altro episodio accaduto nel 1885, nella notte del 2 gennaio del 1885, un anziano, stavolta vedremo il protagonista è un sacerdote, si presentò alla porta di un sacerdote per chiedergli di recarsi da una donna agonizzante. Il sacerdote seguì lo sconosciuto, la notte era molto fredda, ma l'anziano pareva non rendersene conto, camminava davanti e diceva al sacerdote per tranquillizzarlo. Dato che la zona era malfamata, lo aspetterò alla porta. Questa, dove si fermò, era proprio uno dei più miserabili usci del quartiere. Quando il prete raggiunse la moribonda, udì che si lamentava dicendo tra i gemiti: «Un sacerdote! Un sacerdote! Sto per morire senza sacerdote! Figlia mia, io sono sacerdote, un anziano mi ha avvertito di venire». L'inferma gli confessò i peccati di una lunga vita ed il sacerdote le chiese se per caso avesse mai osservato qualche pratica devozionale. Nessuna rispose, tranne una preghiera che recitavo tutti i giorni a San Giuseppe per ottenere una buona morte. La donna, dopo la confessione, ricevette la comunione e l'unzione degli infermi e rimase molto rincuorata. Quando il sacerdote raggiunse la porta per uscire, non vi trovò nessuno. Ma riflettendo sul fatto di quella notte, sul mistero di consolazione che aveva esercitato, sentì nascere nel suo cuore la convinzione che l'anziano caritatevole non fosse altri che il glorioso e misericordioso San Giuseppe, patrono della buona morte. Quindi è un altro episodio, un po' legato ancora, vedete, ai temi della buona morte. Tenete presente che queste catechesi io non ho fatto i conti, vi confesso sinceramente, quindi sono rimasto molto sorpreso del fatto che la prima, anche martedì scorso, apparizione questa di questa sera fosse, diciamo così, oggetto della nostra attenzione a ridosso del mese di novembre oppure oggi dopo le celebrazioni del primo e del 2 di novembre. Quindi Quindi io vorrei anzitutto dire agli ascoltatori, se c'è qualcuno che mi segue online, di ascoltare con attenzione l'omelia che ho fatto sabato scorso, specialmente quella riguardante il purgatorio, che già è stata, ha avuto dei vari rimbalzi in giro online, perché queste verità di fede oggi sono completamente obsolete, e io ho una pena immensa, come ho avuto modo di dire, per le povere anime. Ecco, io posso confessare che, posso dire, poco prima della trasmissione oggi ho ricevuto una chiamata, perché c'era il fratello di una persona, tra l'altro molto cara, molto vicina a noi, in fin di vita. Guarda, è una cosa molto molto bella, fratello in fin di vita a cui ho potuto amministrare tutti quanti i sacramenti, perché chiaramente chi gli stava vicino aveva questa attenzione e lui ha accettato di farli tutti quanti. È stata una delle rarissime volte. E faccio tutte le preghiere degli agonizzati, tra l'altro, permettetemi, quelle del rituale antico sono enormemente più belle e più lunghe. Io generalmente, quando è possibile, uso quelle. Cioè, io che capisco il latino, ci sono delle preghiere veramente commoventi e di una profondità assolutamente impressionante. Insomma, lui era incosciente per tutta la durata delle preghiere. Alla fine, dopo le preghiere per gli agonizzati, ci sono le invocazioni, e poi in latino terminano le ultime invocazioni che si possono recitare quando l'agonizzante è ancora vivo, perché poi quelle ci sono quelle successive che sono il d'espirazione, quindi dopo che è morto. Ma le ultime erano: Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore dell'anima mia. Ma ci credete che all'ultima invocazione questa persona ha aperto gli occhi e improvvisamente è ridiventata cosciente, mi ha riconosciuto, mi ha sorriso, e io ci ho voluto anche un pochettino scherzare, gli ho detto: dico, guarda, preparati che siamo quasi arrivati. Ha baciato il crocifisso, perché gli ho detto: dico, vuoi dare un bacetto a Gesù? E gli ho rifatto ripetere con me. Lui è riuscito a farlo malamente, beh, per la prima, perché non parlava bene, però gli ho detto: fammi di sì con la testa, e gli ho fatto ripetere: Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia, e queste tre cose. È successo mezz'ora fa, non, da, tre quarti d'ora fa, non di più. Quindi stiamo, una persona che nella vita non, cioè, sta però vivendo un contatto con la morte fantastico, e insomma posso dire che nella vita non sempre, diciamo così, era stato molto molto vicino a quello che raccontano, insomma, i familiari, ma grazie a un'attenzione vigile dei familiari, sta vivendo questi momenti con una serenità, mi racconta, insomma, che gli è stato vicino, che è assolutamente sorprendente. Perché sono importanti queste cose, cioè, non è la stessa cosa accostarsi alla morte, con la grazia di Dio nel cuore, quindi vicini al Signore, oppure no. È l'ideale, come ripeto, ho detto la volta scorsa, vedete che questa donna ha fatto anche la confessione. Io vi dico, non voglio parlare di cose mie personali, no? Tempo fa il vescovo riprese, come dire, alcune prassi che a volte corrono il rischio di diventare, come dire, controproducenti, nel senso che la cura degli infermi, secondo il diritto canonico, spetta ai parroci personalmente. Perché adesso, con il fatto che ci stanno i ministri straordinari della Santa Comunione, può accadere, speriamo di no, che si deleghi, a mio avviso in maniera molto molto malsana, però questa è un'opinione mia personale, lungi da me, cioè, questo servizio ai laici. Ma se un malato c'ha bisogno di confessarsi, chi lo confessa? Adesso la Chiesa consente, io ho molte riserve su questa cosa, anche se mi inchino alla disciplina della Chiesa, ho torto collo, sinceramente, che si faccia questa cosa. Però un laico non può confessare un moribondo, e non può manco dargli l'olio santo, e non può neanche fare le preghiere di raccomandazione dell'anima previste dal rituale. Può fare, certamente, come tutti, le preghiere private, può dire un rosario. Ma i sacramenti sono una cosa importante, però, e noi non dobbiamo pensare che le persone anziane, io vi parlo da preti, da prete, senza, cioè. A volte capita che una persona, anche che sia molto avanzata in età, gli sovvenga alla memoria magari un peccato che ha commesso quando era più giovane e non l'ha mai confessato. E magari si tratta di una cosa proprio non tanto tanto lieve. Allora voi capite che non è la stessa cosa presentarsi davanti al Padre Eterno avendo rimesso questo peccato nelle mani del sangue di Gesù attraverso un sacramento, oppure no? Quindi, certamente le persone anziane, quando sono poste nell'impossibilità, insomma, di fare chissà che cosa, però a volte possono sussistere anche. Noi non possiamo essere, come dire, troppo buonisti o troppo ingenui e sostituirci a Dio. Speriamo che siano tutti quanti santi, però non possiamo darlo per scontato, no? Può succedere che una persona anziana magari si porta nel cuore dei rancori, degli asti con qualche fratello, con qualche situazione. Noi come facciamo a dire, ma tanto questo che si confessa fa che tanto non ce n'ha bisogno? Che calma, Fosse anche la confessione di devozione, che magari non ci fossero, oppure il penitente, cosa molto più probabile, non fosse cosciente di cose grosse, è comunque un sacramento da fare. Io vi dico che tutto l'iter, come dire, che dovrebbe essere fatto per un defunto, a partire dalla confessione, perché dovrebbe essere confessione, unzione, viatico e poi preghiere di raccomandazione dell'anima, dopo la morte poi ci sta la benedizione della salma, quindi preghiere dopo la morte. Poi ci sta la veglia di preghiera in casa, generalmente il rosario, e poi c'è il funerale. Quindi pensate, ecco, le ultime tre cose le ho sempre fatte, perché queste sono cose fatte dopo la morte, ma le prime, quelle che vengono prima, raramente, e in modo particolare la confessione, rarissimamente, perché quei pochi che ti chiamano, salvo rare eccezioni, ti chiamano, come ho già detto in qualche altra circostanza, quando il malato sta già fuori coscienza. E quindi gli puoi dare l'estrema unzione o l'unzione degli infermi, come preferiti, ma sempre sotto condizione, perché i sacramenti funzionano a condizione che il destinatario dei sacramenti li voglia ricevere. Per cui quel sacramento viene sempre dato sotto condizione tacita, cioè gli do questo sacramento a condizione che, qualora fosse stato cosciente, lui l'avrebbe chiesto oppure avrebbe accettato di riceverlo. Capite? Fermo restando che deve essere dato, ecco. Io quindi riesorto di nuovo a partire da questa cosa, se San Giuseppe scende dal cielo, d'accordo, e va a svegliare un prete di notte, attenzione, ecco, di notte, ecco, io ho sempre raccomandato ai fedeli, e lo dico e fatelo senza nessun problema, che l'olio santo, cioè o i sacramenti per i moribonti, vanno dati a qualunque ora. A me soltanto una volta mi è arrivata una chiamata all'1:15 di notte. Male questo qui. Perché un sacerdote può essere tranquillamente che è come sotto questi punti di vista, anzi, è più di un medico. Se una persona sta a morire alle 2 di notte, non è che quello te lo va a chiedere. E tu chiami tranquillamente il parroco alle 2 di notte, chiamateli senza nessun problema. E il parroco ha obbligo grave di alzarsi istantaneamente, di prendere la macchina e di andare a dare i sacramenti a quella persona. Quindi questo non. Una volta mi raccontavano gli anziani sacerdoti che nelle canoniche dei preti, questo perché lo dobbiamo sapere, c'era il citofono per il giorno e il citofono per la notte. A casa mia il citofono suona sempre, di giorno e di notte, però. Per esempio, la notte devo tenere fermo almeno la notte il cellulare, perché se fosse acceso pure la notte non dormirei, che mi arrivano 300 notifiche al minuto. Però io ho il telefono fisso in camera e le persone sanno che se c'è una richiesta, il telefono fisso suona con suoneria forte e io mi sveglio e vado. Perché bisogna farlo. Sono cose importanti. Ecco, usciamo, vi prego. Tutti, cari ascoltatori, da questa mentalità non cattolica assolutamente, non cristiana, che i sacramenti sono quasi un'opzione. I sacramenti sono indispensabili per la salvezza, sono necessari, cioè indispensabili non in senso assoluto, perché noi sappiamo che il Signore, dicevano i santi e gli autori ecclesiastici attendibili, e lo ha confermato anche la Chiesa in alcuni concili, Dio agisce ordinariamente attraverso i sacramenti, ma non è vincolato dai sacramenti, nel senso che se vuole, in caso di impossibilità grave, oggettiva e soggettiva, può far arrivare la grazia di un sacramento anche senza, ma noi non possiamo, sulla base dell'eccezione, dell'onnipotenza di Dio, trarre una regola. Per Perché se uno ragiona così, guardate come uno smonta subito tutto, no? Dio può salvare qualunque persona che esiste nella faccia della terra, allora non andiamo a annunciare il Vangelo a nessuno perché tanto Dio lo salva lo stesso. Allora Gesù Cristo che ci è venuto a fare sulla terra è perché avrebbe detto andate in tutto il mondo e annunziate il Vangelo a tutte le creature. Noi non possiamo, perché Dio certamente che lo può fare, ma ci sono delle cose che Dio potrebbe fare ma non le fa, perché ha stabilito di fare diversamente. E se Dio ha stabilito di fare diversamente, lui stesso è il primo che si adegua e si attiene a quello che ha deciso. Scusate, ma San Giovanni Battista nel Vangelo non ha detto che Dio può far nascere figli di Abramo anche da queste pietre? Ma voi avete mai visto nascere un figlio di Abramo da una pietra? No. Questo vuol dire che Dio non lo può fare? Ha fatto, perché certamente che Dio lo può fare, però non lo fa. Ecco, quindi noi non possiamo agire e pensare sulla base del fatto di quello che Dio potrebbe. Noi dobbiamo stare a quello che Dio ha fatto e a quello che Dio ha stabilito. Perché se Gesù Cristo è venuto sulla terra ed è morto in croce per ottenerci la redenzione e ha stabilito che la redenzione che ha operato per noi arrivi a noi attraverso i sacramenti, che sono sette, ciascuno attraverso il suo effetto specifico, non possiamo assolutamente prescinderne. Perdonatemi se apro la parentesi, io ho sempre detto, e spero che Antonio sia d'accordo, che queste nostre conversazioni devono essere dell'occasione per degli spunti di catechesi, no? Pensate a qua, cioè, ho un altro grosso problema pastorale, perché non c'è soltanto il problema dei morti, oggi è anche il problema dei vivi, i ragazzi che non si sposano. Adesso, a prescindere dalle motivazioni psicologiche e umane, che si potrebbe stare a parlare una settimana sul perché i ragazzi oggi sono così immaturi e eterni bambini, e che non si vanno a prendere impegni definitivi, ma proprio, cioè, io mi accorgo che non capiscono la gravità del fatto, cioè, allora, perché il discorso è questo qui, se Gesù Cristo ha fatto del matrimonio, che non l'ha inventato lui, diciamo così, come la messa e come l'Eucaristia, la gente si sposava anche prima, però ha elevato, diciamo così, questa unione fondata nella natura, fin dai tempi di Adamo ed Eva, alla dignità di un sacramento. Ma perché ha fatto una cosa di questo genere? Perché sa che un uomo e una donna non possono vivere le esigenze del matrimonio, le esigenze di amore totale, reciproco e indissolubile, di apertura alla vita, di dedizione di una vita per amore dei figli, con tutti i sacrifici che questo comporta, se non sono corroborati da una grazia propria e specifica. Quindi, se tu vai a convivere senza fare questo, stai dicendo al Padre Eterno che è, perdonatemi il termine, che è un inetto, che è uno stolto, che fa cose inutili. Perché tanto che c'è bisogno che passo per la Chiesa? Che c'è bisogno che vada a chiedere il permesso al prete per andare a vivere insieme, tanto è la stessa cosa, no? Allora dobbiamo fare attenzione, cioè, questa è una mentalità brutta, questa qui, eh? E i sacramenti sono importantissimi, non c'è niente, cioè, stesso discorso vale per il fatto della cresima, uguale, no? Cioè, io lo so che molti dei ragazzi, ahimè, ci piango sopra, che ammetto alla cresima, dopo averli un pochettino, questo sì, pressati prima, nel senso di esigere che almeno qualcosina, ecco, non arrivino a quel sacramento proprio impreparati, però prima di dire a un ragazzo la cresima non la fai, ci devi pensare 400.000 volte, non soltanto perché da un punto di vista pastorale una cosa del genere è molto controproducente anche per il bene dell'anima, non solo perché quello là non viene più in parrocchia da me, ma perché prende in odio la Chiesa, ma anche perché questo sacramento è importante, non è un accessorio. Vi sto dicendo queste cose per farvi capire come Satanasso, attraverso anche delle buone idee, oggi sta distruggendo tutti i sacramenti, perché i sacramenti dei moribondi non gli si danno perché sennò poverino, sto poraccio che sta a morire, vede il prete e gli prende un colpo, d'accordo? Il matrimonio non lo facciamo perché tanto non serve, tanto che differenza c'è? E poi se le cose vanno male, allora il matrimonio dopo mi divorzio, dopo non posso fare la comunione, dopo ci vuole la sacra rota, eccetera, eccetera. La cresima, allora, no, la cresima non si può fare se la persona non dà garanzie che non rimanga in parrocchia. Ah, e poi non parliamo dei battesimi. I battesimi, no, ci vuole la fede dei genitori, devi fare 400 incontri prima del battesimo, poi se due persone convivono comincia a fare un sacco di questioni. Anch'io in certi periodi dell'esistenza, confesso, come dire, ho pensato ad alcune cose e mi ero quasi lasciato un po' prendere. Dopo però uno si è messo a pensare, dico, ma voi lo sapete che il diritto canonico dice che per quanto riguarda il sacramento del battesimo, non so se lo sapete, cioè se due islamici musulmani vengono da me e mi dicono ho fatto un figlio, voglio che sia battezzato, io glielo devo battezzare. L'unica cosa è che il padrino deve essere cristiano, cattolico e anche cristiano, cattolico che stia in condizione non irregolare, eccetera, eccetera. Perché per quanto riguarda i genitori, l'unica cosa che è chiesta, per quanto è importante questo sacramento, è che i genitori prestino il consenso. Viceversa, se due genitori cattolici, solo uno dei due, pur essendo tutti e due cattolici, si oppone al sacramento del battesimo, io non posso battezzarlo. Mi è già capitato a livello pastorale questa cosa. Cioè, di una famiglia dove X, dove uno dei due, non specifico se lui o lei, voleva battezzare i figli, l'altro o l'altra, per situazioni pratiche, diciamo così, di agnosticismo, di ateismo pratico, non vuole che i figli diventino grandi e scelgano loro. Non ci può fare niente nessuno una cosa di questo genere, neanche il vescovo, manco il papa può battezzare quel bambino, perché c'è un diritto sovrano dei genitori. Ecco, però è certamente che è ovvio che se viene una persona, come dire, che magari hanno fatto la scelta di convivere, tu caritatevolmente, paternamente gli dirai, figli miei, dico, però sì, certamente il battesimo si deve fare perché comunque questo è un regalo che si fa al bambino. Tenete presente però che se non ci metterete poi un po' del vostro, anche pensando un po', chiedete un sacramento e tuo figlio cresce e dice, ma come, mi hai fatto battezzare e tu dei 7 sacramenti, uno l'hai già escluso a priori. Cioè, si trovano dei modi, diciamo così, no? Ma non. Partendo da questo, non battezzo nessuno, fermo restando che non è una situazione non normale, non bisogna, si può neanche andare nell'altro estremo che uno fa finta di niente come se niente fosse, perché non è come se niente fosse, no? Ecco, però questo per dire che i sacramenti sono sempre importanti, per cui prima di dire di no, ci devono essere delle motivazioni gravi e invincibili. Punto. Andiamo avanti. Guardate ancora, Oh, vi ripeto, circostanze non cercate e non volute, ci sono capitate questi episodi in questi giorni. Questo vi dico perché l'altro episodio, continuo la lettura, il 2 novembre 1853, una giovane, 2 novembre, ispirata da Dio, sentite, concepì l'idea di fondare una congregazione per aiutare le anime del purgatorio. Pensate un po' con chi si è andata a consultare questa donna? Si consultò col santo curato d'Ars, il grande santo curato d'Ars, che è mio patrono, perché è patrono dei parroci, anche se io non sono neanche degno di nominarlo, e il santo curato d'Ars l'ha benedetta questa cosa, quindi la consigliò e l'aiutò nell'opera. Dice, la fondatrice, molto devota a San Giuseppe, gli promise che se quest'ultima fosse arrivata a compimento, la prima casa sarebbe stata a lui dedicata. L'opera si realizzò e prese il nome di Ausiliatrice delle Anime del Purgatorio. Il giorno successivo all'acquisto di una casa a Parigi per iniziare l'opera, uno sconosciuto che non sapeva nulla, sentì, fece loro il regalo di una statua di San Giuseppe. Come se lo stesso San Giuseppe avesse voluto rendersi presente e dichiararsi protettore dell'opera. Avete capito? Quindi, San Giuseppe ha tantissimo a cuore le anime del purgatorio. Così possiamo dire, ecco, io vi straraccomando. Le anime del purgatorio, come ho già fatto la volta scorsa, anzitutto ricordando a tutti gli ascoltatori che fino all'8 novembre, non so se l'ho detto nella puntata scorsa, però voi perdonerete il mio incalzante Alzheimer, quindi ripetita Juvant sempre, fino all'8 novembre. Lo trovate sul manuale delle indulgenze di Santa Romana Chiesa Cattolica. Queste non sono farneticazioni di Don Leonardo Maria Pompei, eh? Quindi vi sto parlando adesso a nome della Chiesa. Allora, la Chiesa, per questo amore grande che c'ha verso le anime del Purgatorio, concede dall'1 all'8 novembre un'indulgenza plenaria, capite cosa vuol dire plenaria? Applicabile solo ai defunti, quindi non per noi stessi, ad un defunto al giorno, quindi noi abbiamo 8 giorni, 8 anime a disposizione, ad una condizione facilissima, quindi fermo restando lo stato di grazia, quindi che una persona stia in grazia di Dio, poi, quindi che non abbia fatto peccati mortali, oppure abbia avuto una confessione recente, oppure si vada a confessare quanto prima, ma basta che si reca al cimitero, entra dentro il cimitero e guardate, vi cito testualmente il testo, e reciti anche solo mentalmente, cosa strana perché generalmente per le indulgenze le preghiere devono essere tutte dette ad alta voce, tutte vocali in senso stretto, un eterno riposo, uno solo. Quindi dovete sapere che oggi è 4 novembre, oggi è San Carlo Borromeo, ci rimangono 4 giorni, fatelo, perché ne avrete benefici e gratitudini per tutta la vita. Certo, bisogna fare il sacrificio e andare al cimitero. Io non vi dico le giornate che ho, che le mettiamo nelle mani della Divina Misericordia, però io sto facendo i salti mortali perché questa cosa riesco a farlo tutti i giorni e fino ad oggi ci siamo riusciti. Mi organizzo, non c'è, devo fare qualcosa, ma bisogna farlo, perché se tu hai 8 anime l'anno che mandi... E queste vanno in paradiso sicuro, eh? Cioè specialmente se noi le applichiamo alle anime abbandonate del purgatorio. Voi sapete, quando ci sta un'indulgenza ci sono, come dire, due cose da considerare, no? La prima è questa, insegna la Chiesa, innanzitutto sapete cosa sono le indulgenze, spero, perché l'indulgenza è la remissione totale delle pene dovute al peccato già rimesse quanto alla colpa. Nell'omelia sul purgatorio, che vi ho invitato ad ascoltare, io a nome della Chiesa, perché questa è dottrina cattolica doc al 100%, quindi non sono queste qui teorie neanche di santi e di mistici, si spiegava che dopo il peccato rimesso quanto alla colpa, perché ci sta il purgatorio? Perché ci sono due problemi. Primo, il peccato ti indebita, ti spinge, ti fa contrarre un debito con la divina giustizia, che comunque deve fare il suo corso. Deve fare il suo corso, perché la colpa che viene rimessa è l'offesa di Dio, non altro. Secondo, come insegna San Tommaso, il peccato produce una macchia nell'anima, una macchia. Quella macchia deve essere in qualche modo tolta. È come una macchia di un panno che noi abbiamo. Se un panno nostro si macchia, deve essere messo in lavatrice. Se no la macchia rimane. Ecco, allora, entrambe queste due cose si purificano attraverso la sofferenza offerta con amore. Ora, nel purgatorio l'amore c'è sempre, perché le anime sono unite a Dio. E ci stanno però delle pene che devono essere sofferte per espiare queste cose. Rispondo in diretta, non so se sta sentendo, perché una persona poi, non mi ricordo se da YouTube o da Facebook, mi dice ma Gesù è morto in croce e ha pagato per tutti, e come mai che bisogna andare in purgatorio? E la risposta è facilissima, anche questa l'ha data San Tommaso e l'ha data anche il Concilio di Trento. Allora, certo che Gesù Cristo è morto in croce, ed infatti noi riceviamo gli effetti dei suoi meriti in maniera integrale nel sacramento del battesimo. Perché se una persona viene battezzata a 30 anni, supponiamo che una persona venga battezzata a 30 anni, con il battesimo non gli viene soltanto rimesso il peccato originale, gli vengono rimessi anche tutti i peccati che ha commesso in vita e tutte le pene dovute per il peccato. Tutte. Quindi se una persona si battezza a 30 anni, supponiamo, dopo che gli è stato detto io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, istantaneamente dopo muore, quella va diretta in paradiso, subito, istantaneamente. Non passa per nessun per... Certo, se passano 10 secondi, già un purgatorio, perché basta già aver fatto un pensiero cattivo, che in paradiso per direttissima non ci vai. Però è così. E questo lo spiegano i padri della Chiesa. Gesù è morto in croce quante volte? Una sola volta è morto in croce. Quindi i meriti infiniti del suo sacrificio, sia per quanto riguarda la remissione delle colpe che per quanto riguarda la soddisfazione delle pene, vengono comunicati alle creature umane una volta sola, perché una volta sola è morto nostro Signore. In tutte le altre circostanze, cioè per i peccati commessi dopo che ti è stata comunicata in pienezza la grazia redentiva di Gesù, ti viene comunicata in pienezza in quanto alla remissione della colpa, non in pienezza in quanto alla remissione della pena, perché in parte sì, cioè perché comunque con la confessione parte della penitenza l'ha già fatta nostro Signore, parte ti viene data da parte del sacerdote, ma come dice il Concilio di Trento, quasi mai la penitenza data dal sacerdote è sufficiente all'espiazione della pena, oggi poi meno che mai, perché oggi siamo in tempi complicati, per cui non si possono dare, non si possono e non si devono dare grandi penitenze. Fermo restando che il confessore, per alcuni peccati gravi, se non può dare delle penitenze gravi, dovrebbe pensarci lui o farle fare a chi per lui, in qualche monastero, in qualche posto. Quindi apro piccola parentesi, attenzione a andarsi a confessare da confessori che tu confessi che hai commesso adulterio, che è un peccato gravissimo, e ti danno come penitenza di dire un Ave Maria, Non è buono il confessore che fa così, Poi quando ti troverai davanti a Gesù Cristo, che ti dovrai fare senza quanto purgatorio per quel peccato lì, poi non è che lo amerai tanto, insomma, a quel confessore, E tenete anche presente un'altra cosa, se avete grazia, se avete fede, chiedetela voi una penitenza congrua in confessione, perché insegna la dottrina comune della Chiesa questo, cioè se tu fai un rosario come penitenza imposta dal confessore, quel rosario è atto sacramentale, perché è la penitenza sacramentale della confessione. Quindi davanti a Dio l'efficacia e il valore che ha quel rosario ancora, vedete l'importanza dei sacramenti, trae origine e forza dal sacramento, quindi è enormemente più grande che non un rosario che tu dicessi per conto tuo. Io adesso non possiamo fare cose ridicole, calcolatrici o cose di questo genere, però tanto per farvi un'idea, questa è una cosa completamente inventata, però dovrebbe essere una cosa del genere, cioè se il confessore dice di un rosario, tu per avere davanti a Dio lo stesso valore espiatorio di quel rosario dovresti dirne 100 per conto tuo, capito? Per questo che è molto importante che il sacerdote, pur come dire nella necessaria indulgenza e con l'attenzione grande per l'anima che ha davanti, no? Ecco, proporzioni una penitenza adeguata all'interno dei tempi in cui viviamo, che è molto difficile, e per amore di quell'anima provveda nel segreto a che almeno un'altra parte di quella penitenza che non può dare al penitente sia in qualche forma, in qualche modo assolta. È importante questo, anche qui non ci abbiamo un'altra volta la fede, perché voi capite cosa vuol dire perdere la fede? Cioè, noi non possiamo pensare che sia per direttissima in paradiso. Cioè, a me piacerebbe che fosse così, gentilissimi ascoltatori, io sarei contentissimo, d'accordo? Ma sappiamo per certo che non è così, perché la Chiesa non ha mai insegnato questo. Quindi chiunque insegnasse il contrario non vuole bene al prossimo, non sta tranquillizzando il prossimo, dice ah che bello andiamo tutti in paradiso, perché tu non puoi dire una cosa che non è vera, perché poi questa cosa non succederà, non è così, è inutile che uno si arrabbia, è inutile che uno si urta. Io ho visto tutto quanto il pandemonio che hanno fatto alcuni, non mi aspettavo di suscitare, la settimana scorsa dopo la catechesi sulla San Giuseppe sono andato in onda il giorno dopo su Radio Buon Consiglio, ma tanto così per fare una cosa, prima di iniziare la catechesi del giorno ho fatto una piccola parentesi di 15 minuti su Halloween, ma breve, è successo il pandemonio informatico, cioè non vi dico che cosa è successo con quella cosa. Allora, tu ci credi o non ci credi, ti piace o non ti piace, stai a dire che Don Leonardo è esaurito, che è un pazzo scatenato, che esagera, quello che vuoi, ma tanto quello così è, cioè, d'accordo, Io adesso non te lo posso dimostrare che è così, ti posso soltanto fornire alcuni indizi, come tutte le cose di fede. Ma tanto te lo dimostro che tu ci credi o non ci credi, Halloween quello è. Quindi, che tu ci credi o non ci credi che esiste il purgatorio, che nel purgatorio si soffre, che nel purgatorio c'è il fuoco, ci stanno le pene del senso e tutto il resto che la Chiesa insegna e che alcuni santi e alcuni misti tra l'altro vanno ancora un pochettino più in particolare e vi rimando all'omelia, che tu non ci credi, peggio per te. Capito? Non soltanto peggio per te, è gravissimo perché tu in questa vita non poni in essere le contromisure che ci stanno, tipo le indulgenze per esempio, o tipo la penitenza sacramentale adeguata oppure non sacramentale, volontaria che noi facciamo, perché se io faccio un digiuno, allora uno che la fa fare la penitenza? La penitenza serve anche come espiazione delle colpe, non solo per quello, perché serve anche per altri motivi. Ma anche per questo. Per questo che dopo quando qualcuno dice: "Ah, ma le penitenze non servono a niente perché ha pagato per tutto il nostro Signore", non dategli retta, perché Gesù ha pagato per tutto nel senso che vi ho detto prima io e che trovate nel Concilio di Trento e nella Summa Teologia di San Tommaso d'Aquino. In quel senso. Quindi il resto, quindi i peccati che facciamo dopo il battesimo, li ha pagati Gesù, ma non senza di noi. Ecco. Io vi dico queste cose per il vostro bene, capite? Cioè io sono un sacerdote costituito in cura d'anima e la prima forma di carità è dire la verità, con dolcezza, con pacatezza, senza estremismi e senza tante situazioni, ma dirla. Allora, leggiamo ancora un altro episodio. Maria Repetto era nata nel 1807 a Voltaggio, a nord di Genova. A 22 anni entra nel convento delle figlie di Nostra Signora del Rifugio a Bisagno. Essendo di salute precaria, la impiegano nel cucito. Poi passa all'infermeria e alla fine in portineria. Da portinaia manifesta una grande devozione a San Giuseppe. Ai visitatori consiglia di ricorrere allo sposo di Maria. Se qualcuno viene a chiedere consiglio o aiuto, gli dice di attendere un momento e va a pregare davanti all'immagine di San Giuseppe nel corridoio adiacente. Dopo un attimo ritorna e dà la risposta adeguata. Vedete? In un'occasione una signora le chiede preghiere perché suo marito è diventato cieco. La religiosa le consiglia di pregare San Giuseppe e poi lei stessa si raccoglie in preghiera davanti all'immagine del santo. Il giorno seguente la signora torna e racconta che suo marito ha recuperato la vista. Suor Maria, grande devota di San Giuseppe, venne beatificata da Giovanni Paolo II nel 1998. Grazioso questo episodio, faccio un commento breve, perché come la Madonna, voi sapete che esistono anche le litanie di San Giuseppe, eh? E San Giuseppe è invocato come uomo prudentissimo. Così come la Madonna, e anche come angelo del buon consiglio, così come la Madonna che è invocata come madre del buon consiglio. Quindi quando abbiamo qualche dubbio o qualche scelta che non sappiamo che fare, ricordiamo, ecco, che insieme alla Madonna c'è anche San Giuseppe da invocare. Ecco, San Giuseppe Moscati, tra l'altro, degno sposo, come dire, non degno sposo, degno portatore dello stesso nome dello sposo di Maria, ecco, quando aveva qualche dubbio anche clinico sulle diagnosi, si racconta che si metteva la mano in tasca e toccava il rosario. Era un gesto di invocazione. Io vi invito a fare queste cose. Io le faccio quando non so che dire anche a una persona. Basta toccare un attimo un rosario, insomma, e fare un'invocazione mentale perché la mano del Signore attraverso dei buoni intermediari ci aiuta un po'. Quindi, qui il miracolo è che attraverso una preghiera di intercessione è stata ottenuta la guarigione di un cieco da San Giuseppe. Ancora, nella città di San Luis, negli Stati Uniti, nel 1800 66, Saint Louis, per l'esattezza, che non è francese, ci fu un'epidemia di colera che uccise per 2 mesi circa 280 persone al giorno. Nella parrocchia di San Giuseppe, il parroco e superiore della comunità dei Gesuiti, padre Josef Weber, invitò i suoi fedeli a fare un patto con Dio per costruire un monumento a San Giuseppe, il patrono della parrocchia, se fossero cessate le morti. A partire dal giorno in cui fecero la solenne promessa a Dio tramite San Giuseppe, finirono i decessi in parrocchia, che prima ammontavano a circa 25 al giorno. Nessuna persona delle famiglie che avevano fatto il patto morì. La cosa venne considerata un miracolo e mantennero la promessa. Costruirono un magnifico altare nel presbiterio della chiesa, l'altare principale che esiste ancora oggi, che da allora viene chiamato l'altare delle risposte alle preghiere. Questo miracolo venne registrato come un fatto autentico nei documenti della parrocchia nell'anno 1866 a gloria di San Giuseppe. Quindi io vorrei evidenziare, siamo addirittura d'arrivo, forse ci fermiamo qui. Un fatto abbastanza importante alla luce di questo velo. Vedete, questi hanno ottenuto la guarigione di una sciagura con un'epidemia, il colera, e la preservazione dalla contrazione del morbo attraverso una richiesta a San Giuseppe seguita da un voto, perché un patto di costruire un monumento, cioè il discorso era questo qui: se tu mi preservi dal contagio e fai smettere questi continui decessi quotidiani, ti costruisco un altare come Dio comanda, un monumento bello. Questo è un voto sotto tutti i punti di vista. Allora, due cose insegna questo episodio. Uno, il valore dei voti. Io questo lo consiglio, l'ho consigliato tante volte, specialmente alle famiglie che non possono avere bambini. Che non possono avere bambini, nonostante io ne ho conosciute già tante, che da un punto di vista medico non ci sono motivazioni tali da giustificare le mancate gravidanze. A me è già successo una volta, fatto storico, di dire a una persona: dico, ma ci hai pensato di fare una cosa? Vattene al santuario mariano e prometti alla Madonna, se mi dai un figlio, fagli una promessa di qualunque, magari io verrò qui una volta l'anno, oppure farò un'elemosina una volta al mese per tuo amore, digli qualcosa. La persona è tornata l'anno dopo col bambino, non mi ricordo se col bambino o incinta, piena di gioia, perché non c'è. I santuari sono pieni di queste cose, o dei PGR. E un'altra cosa, noi vogliamo essere protetti dalle sciagure. No, le sciagure vengono dal demonio. Lo sapete che il male, cioè, non pensiamo che, cioè, tutte quante le forme di male, le catastrofi, i terremoti, sono azionati in via diretta dal demonio. Inutile prendersela con il Padre Eterno. Quindi, perché colpiscono come dire, a volte a man bassa, a destra e a sinistra? Perché noi non ci difendiamo, non ci proteggiamo. Io, per esempio, ho insegnato alla gente, e lo dico anche via radio, perché l'ho sentito tanti anni fa, il demonio durante un esorcismo disse queste parole: gli incidenti stradali li provochiamo noi, io e gli amici miei. Se tutti gli uomini entrando in macchina recitassero l'angelo di Dio, ci sarebbe una riduzione, altro che la patente a punti, tutte quante quelle che gli incidenti finirebbero. Io vi posso dire che negli ultimi 6 anni, una volta mi sono dimenticato di dire l'angelo di Dio in macchina. Una. Ho fatto un incidente, con colpa, perché è stato un incidente stupido, ma ho tamponato una persona. Mi sono distratto un attimo e me la sono ritrovata davanti. Una volta. Una. Quindi, prima di stare a bestemmiare, come fa qualcuno dinanzi agli eventi sciagurati. Ma perché non proviamo un attimo a chiedere, ma con tutti quanti questi mezzi che il Padre Eterno mi ha dato, ma io ne uso almeno qualcuno? Perché noi, il Padre Eterno ci ha dato 100 miliardi di mezzi, adesso qui, in questi incontri, dove approfondiamo la figura di San Giuseppe, adesso San Giuseppe non si offende, no? Cioè abbiamo un'arma ulteriore, un mezzo ulteriore, ma se uno si andasse a studiare tutti quanti i santi, se vogliamo parlare di Santa Rita, cioè. Ci abbiamo un armamentario che noi dovremmo essere, come dire, blindati, invincibili, con armatura. L'inferno dovrebbe essere terrorizzato quando vede un figlio di Dio. E invece spesso e volentieri ci ride dietro o ci ride sopra, ci prende in giro e si fa beffe di noi. Ma è colpa nostra che succede questo qui. Perché nonostante tanti mezzi che abbiamo a disposizione, a causa della nostra spesso, come dire, indolenza, voglio concedere la buona fede, ma qualche volta incuranza, abbiamo i patrimoni spirituali, ma patrimoni che è altro che il patrimonio di Bill Gates o di, come si chiama, Steve Jobs. A livello spirituale abbiamo 100 miliardi di volte di più e lo lasciamo marcire nella banca del cielo. Nessuno di noi va a prendere un centesimo lì. E poi se arrivano le sciagure, con chi ce la prendiamo? Non per niente la Chiesa, nella sua sapienza, ogni volta che ci presentiamo davanti a Dio ci fa dire: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Se non altro per il fatto che dinanzi a tante grazie che continuamente provano dal cielo, noi facciamo finta che non ci stanno, neanche andiamo, facciamo la fatica di andarla a prendere. E diventiamo indirettamente noi stessi la causa dei nostri problemi e a talora, ahimè, addirittura della nostra rovina. Quindi che San Giuseppe e la Madonna ci aiutino, ecco, a comprendere come loro, nella loro carità, stanno al nostro, tra virgolette, santo servizio, non soltanto per procurarci tanti beni, ma anche per risparmiarci tanti mali, solo che noi abbiamo l'accortezza di andarli a prendere. Chiedi qualcosa di concreto, prometti qualcosa come gesto di riconoscenza e di devozione e vedrai quante grazie riceverai.